Permesso. Abate. La sezione A era considerata la più prestigiosa e non ho mai capito se c'ero finito per sbaglio o perché Giovanna si era data da fare a mia insaputa. Biagini, fratello di Luca. Mio fratello la ricorda sempre con grande affetto. Manzani. Presente. Ma certo, il tuo babbo è quel signore simpatico, il vicepresidente del Rotary. No, cioè, attualmente non più. Ah no? Da lì in poi sull'attività di mio padre feci calare un fitto mistero che mi annebbiò anche me. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Ho visto proprio con i miei occhi le pallottole schizzare sul canale dell'acqua, lì nella base dove ci hanno tenuto segregati per qualche ora, e lì ho avuto veramente paura. Nel frattempo entrarono due di questi con il bavero rosso in faccia e una pistola in mano e ci minacciarono, tenendoci in ostaggio. Storie di scherzi e di scherzacci in una puntata dedicata ad un nuovo vizio capitale, il cattivo gusto. Proviamo a farlo adesso, facciamo una prova. Mentre siete all'ascolto in questo momento, alle 15:09 minuti in punto, state ascoltando Radio 24, sono Matteo Caccia, questo è Linee d'Ombra e vi raccontiamo le storie dei vizi capitali, storie legate ai vizi capitali. Oggi proviamo a raccontarvene di nuove, storie nuove di nuovi vizi capitali. E uno di questi vizi che abbiamo individuato è sostanzialmente quello che abbiamo definito il cattivo gusto. Il cattivo gusto è un vizio sottovalutato. Perché si dice, ah sì, ok, beh, è un po' una roba di cattivo gusto. Ma il cattivo gusto crea dei danni, perché crea una forma mentale di vedere le cose, di immaginarle, di studiarle e quindi di farne di nuove, che sostanzialmente ci rendono delle persone peggiori. Non per forza drammaticamente peggiori, ma ci rendono delle persone peggiori. Non parlo ovviamente del modo in cui siamo vestiti, non parlo di quella cosa lì. Parlo di un modo di immaginare il mondo che ha a che fare con il cattivo gusto. Anzi, facciamo così: 349-238-6666. Abbiamo un numero dove potete mandare dei messaggi, WhatsApp o SMS se preferite, ma diciamo WhatsApp di solito ormai è molto molto più semplice. 349-238-6666. Qual è la cosa più di cattivo gusto che avete incrociato oggi, in questa giornata, in questo 15 di gennaio del 2020? Può essere una cosa appunto di carattere estetico, può essere uno scherzo di cattivo gusto, perché in realtà noi partiamo da qua oggi. Partiamo da due storie che hanno a che fare proprio con quello. E la prima storia che ci manda Walter è surreale. È veramente surreale ed è incredibile, perché può succedere solo a una persona che ha avuto un'esperienza ben precisa di vita militare, aeronautica, nella fattispecie, in cui a un certo punto esplode una cosa che tutti sperano che sia uno scherzo, tutti sperano che sia un gioco. In realtà poi sembra proprio che non sia così. E poi forse ci sarà la sorpresa finale. Non voglio rovinarvi la sorpresa della storia, che è veramente incalzante e sembra praticamente un thriller. E poi ci sarà invece una storia che riguarda uno di quei piccoli scherzi che decidiamo di fare quando siamo ragazzi, spesso per una di quelle motivazioni che di solito sono un po' le più semplici, le più elementari, soprattutto quando si parla di maschi giovani, e cioè fare colpo su una ragazza. Ecco, lì il cattivo gusto e gli scherzi di cattivo gusto possono fare dei danni ancora peggiori. E poi abbiamo un'altra storia che racconta di un uomo che è un personaggio è sembrato essere un personaggio misterioso all'inizio, quasi affascinante, invece poi è risultato essere un cialtrone vero, una persona che ha fatto dei danni e ha fatto un enorme scherzo orribile a tutte le persone che gli stavano attorno, a tutta l'opinione pubblica, in particolar modo alla stampa. È la storia di Alessandro Proto, ve la racconteremo più tardi all'interno di questa puntata, che è dedicata, vi dicevo, ad un nuovo vizio capitale, il cattivo gusto. 349-238-6666 se avete voglia di condividere con noi qualcosa di cattivo gusto che vi è capitata oggi fra le mani, altrimenti fate come sempre, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Nel 1973 avevo vinto il concorso per fare il servizio di leva come ufficiale di complemento in aeronautica. A gennaio vengo inviato per 3 mesi alla scuola di guerra aerea di Firenze, alle Cascine, per fare il corso per diventare sottotenente di complemento. A aprile-maggio più o meno, una volta fatto il giuramento e assegnati i gradi da sottotenente, vengo assegnato al reparto difesa aerea. E per questo vengo inviato a Borgopiave, provincia di Latina, per svolgere il corso di perfezionamento di 3 mesi sul sistema operativo che gestiva i radar della difesa aerea in Italia in quel periodo lì. Il corso prevedeva una visita di conoscenza delle nostre difese in caso di conflitto, per renderci edotti del funzionamento delle nostre strutture territoriali, dopo che furono rilasciati i nulla osta di segretezza per ognuno di noi, fummo inviati per una settimana in una base del Veneto, precisamente a Porto Gruaro, dove c'era una struttura radar. Lì ebbi una prima grande e indimenticabile avventura, quella di trovarmi a vedere un campo di grano che improvvisamente spariva dai nostri occhi e faceva comparire al suo posto decine di missili puntati verso la ex Jugoslavia. Era ancora il periodo della Guerra Fredda. Fu un'emozione fortissima. Il finto campo di grano era presidiato da Marines americani che giravano continuamente, notte e giorno, con dei grossi revolver nella fondina, accompagnati da cani pastori tedeschi, che li aiutavano a tenere lontano eventuali curiosi. Il soggiorno, come dovuto agli ufficiali in servizio, era di prim'ordine. E trascorremmo il primo giorno con grande curiosità e grande entusiasmo. Questa era una specie di vacanza così di una settimana dove noi studiavamo a Latina, a Borgopiave, dove c'era la base, c'era il corso che durava 3 mesi per poi avere la specializzazione di capo controllore della difesa aerea radar. E durante questo corso era previsto anche una visita in una di queste basi per vedere appunto dal vivo come funzionava la difesa aerea. Il secondo giorno, mentre stavamo finendo di pranzare al circolo ufficiali della base, alcuni erano già al bar a prendere il caffè, all'improvviso arrivarono 2 jeep militari a tutta velocità, sgommando e inchiodando, si fermarono davanti proprio al circolo dove eravamo noi. Entrarono 4 persone con il MAB spianato. Il MAB era il mitra in dotazione all'aeronautica in quel periodo lì. Avevano il bavero rosso che copriva loro la faccia, lasciando fuori solo gli occhi. Strattonando e tenendo legato l'ufficiale di picchetto di servizio alla base, puntarono i mitra verso di noi, urlandoci: «A Roma si è instaurato un governo popolare, c'è stato un colpo di Stato, voi siete tutti fascisti e avrete fatto sicuramente carte false pur di arrivare qui, e da questo momento siete nostri prigionieri». Noi, in quel momento, non avevamo armi in dotazione. Presi così di sorpresa, ci raggrupparono vicino a un angolo del salone del circolo ufficiali, poi ci costrinsero sempre con le armi in pugno a salire su un pullman dell'aeronautica che era parcheggiato lì fuori. Personalmente io pensai subito ad uno scherzo di cattivo gusto, perché nell'aeronautica era consuetudine fare scherzi molto molto forti, però nel dubbio, e visto che comunque eravamo quasi 30 sottotenenti e tutti tacevano, anche io mi adeguai e salì sul pullman. Nel frattempo entrarono 2 di loro, sempre con il bavero rosso in faccia e una pistola in mano. Ci minacciavano tenendoci in ostaggio. A 22 anni io avevo un discreto fisico, giocavo a livello agonistico a calcio con la squadra del mio paese e la prima cosa che mi balenò per la mente appena il pullman era partito fu di aggredire quello che era davanti a me con la pistola spianata. Ho pensato pure che poi sarei scappato oltre confine per capire cosa stava accadendo nel mio paese. Non esistevano telefonini all'epoca. Insomma, cercavo, guardando in faccia i miei colleghi, cercavo un cenno, un consenso per partire e aggredire chi mi teneva sotto la minaccia di quell'arma. Ma poi decisi di aspettare. Il pullman si diresse per circa 25 minuti in aperta campagna, fino a raggiungere, credo, una base dismessa, dove c'erano dei capannoni abbandonati. In quel posto, stesi per terra, si vedevano degli avieri. Sembravano sporchi di sangue. Quando fummo scesi tutti, quello che sul pullman mi era davanti puntò la pistola verso il canale d'acqua che c'era proprio vicino a quel piazzale dove eravamo scesi e cominciò a sparare. Lì iniziai ad avere paura e a pensare che no, non era uno scherzo. Siamo stati lì dentro almeno dalle 2 alle 3 ore. Lì ho visto degli avieri che erano stesi per terra. Poi a noi chi ci teneva sul pullman ce n'erano due, uno davanti e uno di dietro con le armi spianate. Poi dentro, una volta entrati nell'hangar, è stata, ripeto, una situazione veramente brutta, perché c'era il capocorso che teneva i rapporti con queste persone e entravano a turno uno o due, però noi non sapevamo quanti erano, chi c'era dietro e quanti erano, perché noi eravamo segregati lì. Io avevo una tremenda paura di morire, mi guardavo intorno per capire dove potermi riparare o nascondere quando avessero deciso il da farsi. Avevo visto vicino a me un grosso frigorifero abbandonato. Pensai appena possibile di nascondermi lì. La trattativa andò avanti per ore, mentre sopra di noi passavano a bassa quota dei Phantom. Ci dicevano che stavano andando verso Roma, che stavano aspettando istruzioni dal governo popolare instaurato a Roma per decidere che cosa fare di noi. Come dicevo, dopo diverse ore in cui non sapevamo dove eravamo e cosa stesse accadendo in Italia, in quanto completamente isolati e in balia di questi personaggi, all'improvviso si aprì la porta dell'hangar. E un tizio da fuori urlò: «Era uno scherzo!» Io ricordo solo che nessuno voleva uscire. Poi lentamente qualcuno si incamminò e ci rendemmo conto che, sì, era stato uno scherzo. In quel momento ho visto qualche padre di famiglia cominciare a piangere. Alcuni amici che conoscevo bene scoppiarono in lacrime isteriche. Qualcuno venne anche a chiederci scusa, ma le scuse non furono accettate da nessuno di noi. Per dire la verità, io non ho mai capito se fu uno scherzo o fu una prova per vedere se eravamo pronti. Però posso dire che per qualche anno quel trauma me lo sono portato dietro e come. Non potevo sentire persone alzare la voce o urlare e spesso mi capitava la notte di svegliarmi ripensando all'accaduto. E ho sempre portato con me quella brutta esperienza del trovarmi davanti ad un'arma spianata. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. My love and on the run. Che cos'è il cattivo gusto? È mille cose, ha mille declinazioni. Sicuramente una parte del vizio che noi abbiamo chiamato cattivo gusto ha a che fare col fare degli scherzi brutti, che di solito dovrebbero far ridere e non fanno ridere nessuno, e soprattutto possono creare dei piccoli o grandi traumi, proprio come è successo a Walter. Ciao Walter, buongiorno. Ciao Matteo. Walter, l'abbiamo mai capito? Va benone, tu come stai? tutto bene, anche se ricordare mi ha fatto venire un po' un qualche tremore, diciamo così. Ecco, infatti questo volevo chiederti, è ancora un po' doloroso ricordare quel momento? Comunque è stato veramente un momento difficile per te? Sì, guarda, perché diciamo, poi ho lavorato anche 30 anni in banca, in Unicredit Banca, però non ho avuto la fortuna di non subire mai una rapina, anche se ecco, ripeto, trovarsi davanti a un'arma spianata. E ho visto proprio la reazione, il comportamento di come poi davanti a una situazione del genere, che non auguro mai a nessuno di trovarci, sì, si diventa quasi delle larve umane. Cioè, ho visto, mi ricordo, siccome la cosa era stata detta che c'era stato un governo popolare a Roma, e quindi noi eravamo tutti fascisti perché eravamo ufficiali dell'aeronautica, certo. Eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo che a un certo punto ho visto veramente ridursi un po' tutti come delle larve umane, cioè, che ne so, mio nonno ha fatto la resistenza, io ho la tessera del Partito Comunista in tasca, mio padre era partigiano. Certo, insomma, l'unico che tenne un comportamento veramente esemplare, che ricordo, fu il capocorso, il tenente Loi, magari perché era ancora sardo ed era di carriera, immagino. Uh-huh. Noi eravamo di complemento, però ripeto, un'esperienza bruttissima, e che poi mi ha lasciato anche per qualche mese e qualche anno un buon trauma, perché quando sentivo all'improvviso, che ne so, qualcuno che urlava o situazioni così di tensione, non sono stato tranquillo. Adesso ricordarla mi fa un po' di emozione, ecco. E a questo proposito, Walter, ne abbiamo mai capito se era stato appunto semplicemente uno scherzo di cattivo gusto, oppure come tu puoi immaginare, una sorta di prova per vedere se eravate pronti, ma pronti a cosa poi, perdonami? Perché il dubbio ce l'ho sempre avuto, perché io stesso, come tanti altri, avevamo fatto la domanda per l'area SIOS, che sarebbe per i servizi segreti dell'aeronautica militare. Okay. E quindi ho avuto sempre questo dubbio, in questo ormai avevo 22 anni, oggi ne ho quasi 68, per cui sono passati 46 anni, però questo dubbio mi è sempre rimasto, che magari qualcuno non abbia voluto, che ne so, riprendere le scene e metterci alla prova per vedere come ognuno di noi avrebbe reagito in una situazione così particolare. Quanto sei rimasto in aeronautica poi? Ma il tempo del servizio di leva, 16 mesi, che tra l'altro comunque ricordo come uno dei periodi più belli poi in realtà della mia vita, e mi hanno permesso anche di fare tante altre cose. Tu non avevi in mente di fermartici in aeronautica? No, anche se diciamo poi sono stato assegnato a un reparto della difesa aerea che stava a Monte Telegrafo, praticamente sopra Bressanone, a 2500 metri di altezza, dove avevamo una funivia privata che ci portava a questa base radar, dove controllavamo gli aerei che entravano in Italia dall'Austria. Ma parlo, okay, ripeto, di 46 anni fa, ormai queste cose sono tutte superate, la base è dismessa e tutto. Certo. Senti, questo episodio non ha influenzato la tua decisione se fermarti, non fermarti, tornare a fare una vita civile? No, magari questo no. Io sono, diciamo, vivo a Marino, in un piccolo paese, posso dirlo? Come no, a Marino, certo. Ma posso dire, a Marino, certo. Diciamo, il paese più famoso che c'è nel mondo per la Sagra dell'Uva, che tutti, certo, che tutti conoscono. E, diciamo, ero già, in un certo senso, avevo già la mia attività qui, avevo la mia futura moglie. Ok, quindi insomma era proprio una fase di passaggio. Ero un po' radicato già nel territorio, per cui la decisione forse l'avevo già presa prima, anche se mi ricordo che quando fui assegnato in quella base a Monte Telegrafo c'era il tenente, il colonnello, che avrebbe gradito proprio che io rimanessi lì, perché all'epoca io sono un uomo, diciamo, di sport, ho sempre praticato molte attività sportive, ed anche lì, insieme agli alieri che stavano dislocati, che erano isolati in quella, sì, immagina, 2500-2000 metri, praticamente per scendere a Bessanoni ci voleva un'ora con Pulmino, e quindi avevo fondato anche lì un gruppo sportivo, si chiamava Gruppo Sportivo Lupi della Plosa. Ok, ti eri integrato, insomma, ti eri integrato bene. Con cui la domenica andavamo a fare le maratone col pullman dell'aeronautica, con gli avieri, eccetera, anche per creare, come dire, chiarissimo, chiarissimo, quella, chiarissimo. Però invece poi, insomma, la vita ti ha portato da un'altra parte. Però ti ringraziamo molto per averci mandato questa storia. Walter, in bocca al lupo per tutto e a presto. Grazie a te, buona giornata, grazie mille. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linea Dom. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo. Insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi. Dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Acquisto o noleggio? Acquisto o noleggio? Acquisto o noleggio? Acquisto o noleggio? Acquisto o noleggio? Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro, scegli oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri e dopo 3 anni puoi acquistarla a un prezzo garantito. Ad esempio, Alfa Romeo Stelvio è tuo da 399 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 31 gennaio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo 12.200 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Le tecnologie IoT a supporto della supply chain creano data intelligence per governare i processi del futuro. Al 41esimo SIGEP di Rimini, dal 18 al 22 gennaio, vanno in scena le soluzioni edge to edge di Zebra Technologies. Info su multimac.it. Promo Miau! Questo mese sconti fino al 50% sul Grass porcellanato. Promo Miau! Prima non c'era, ora c'è. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miau! Nuova Audi Q5 TFSI E, ibrida E4, pura avanguardia che combina il rispetto del motore elettrico a zero emissioni con la potenza del motore a benzina, fino a raggiungere 367 cavalli. E con Audi Value il valore futuro della tua Audi è già scritto. Scegli oggi Audi Q5 TFSI E. Dopo 3 anni potrai completare l'acquisto, restituirla o sostituirla con un nuovo modello, contando sulla certezza del suo valore futuro. Negli showroom Audi. Ora. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. È dedicata al cattivo gusto questa puntata, questa storia. Tutte le storie di questa puntata di oggi è dedicata a questo nuovo vizio. Vi abbiamo appena raccontato di uno scherzo che forse, boh, chi lo sa se era uno scherzo oppure in realtà era un test. Ve ne racconteremo un altro. Intanto al 349-238-6666 Andrea da Bovisio scrive: oggi al telefono ero al telefono con la mia compagna, aspettavamo l'accettazione del mutuo, stamani vado in banca e mi danno l'esito positivo. Al telefono però con la mia compagna, per scherzo, le dico che il mutuo non ce lo danno e a febbraio dobbiamo lasciare l'attuale casa, quindi disperazione. La sua reazione, senza farmi spiegare nulla, è stata lanciare il telefono contro un muro e romperlo. Questo, diciamo, è il cattivo gusto di cui ci racconta in questo caso il nostro ascoltatore. Ma ora ne abbiamo un'altra di storia, ovviamente ve ne raccontiamo un altro di scherzo di cattivo gusto, e per farlo lo abbiamo trovato in una, insomma, in quell'archivio di storie che è la serata che il nostro Mauro Pescio fa a Roma una volta al mese, che si chiama Mio Cugino. È la prossima storia raccontata dal vivo e dalla sua voce, è la storia di Lorenzo. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Vi devo spiegare dall'inizio. Io vengo da una famiglia non esattamente di accademici, diciamo così. Io e i miei 3 fratelli eravamo un disastro dal punto di vista scolastico. Ci hanno bocciato e rimandato tutti. E mia madre ha passato una decina d'anni in cui le uniche parole che scambiava con mio padre erano: quello non ha fatto niente, quell'altro non ha fatto nulla, bocciano questo, bocciano quell'altro, quell'altro ha fatto sega a scuola. In un tipo di famiglia come il mio c'è sempre una sorta di modello di famiglia di riferimento. Sono precisissimi, sono laureati a 20 anni, sono belli, sono bravi, vanno bene a scuola. Ancora oggi mia madre mi ha fatto notare che la figlia della nostra famiglia modello oggi fa l'avvocato e la sorella fa il medico. E ovviamente non serve a nulla ricordarle che ho 45 anni, ho 3 figli, ho una vita mia, insegno pure io adesso e vabbè, potremmo andare oltre. Per lei questo non conta. Io sono rimasto quello là di una volta. La cosa buffa della famiglia modello è che la mia famiglia, non sapendolo, era la famiglia modello di un'altra famiglia, la famiglia Lolini. I Lolini venivano con noi al mare. I genitori, amici dei miei, con una figlia più grande e un fratello, Sergio, con un paio d'anni meno di me. Sergio, per anni, sia al mare sia agli scout, aveva provato a diventare amico mio, per anni non ci era riuscito, fino a quando, in adolescenza, invece, diventiamo molto molto amici. Quindi la nostra amicizia diventa quasi simbiotica. Passavamo un sacco di pomeriggi insieme a non fare niente in giro in motorino. Molto spesso facevamo sega a scuola. Di solito prendevamo la decisione al telefono. Quindi se sentivo squillare verso le 8 meno un quarto del mattino il telefono, quando ero già pronto per andare a scuola, non era nemmeno necessario rispondere, che già avevo capito tutto. Questa storia in realtà inizia proprio così, inizia alle 8 meno un quarto, una mattina di marzo più o meno, e mi chiama Sergio e mi dice: senti, è una questione di vita o di morte. Io gli dico: guarda Sergio, quest'anno mi bocciano, non posso non andare a scuola oggi. Quindi no, c'è tipo una prova, non mi ricordo esattamente che prova fosse, ma era un compito in classe che se andavo, tipo se prendevo 6 mi salvavo. Invece guarda, se sei veramente amico mio, oggi a scuola non ci vai, ho bisogno di te, per favore vieni a casa mia e prima di venire a casa mia prendi dei pennarelli e dei cartelloni. Quindi prendo il motorino e vado a casa di Sergio verso le 9 coi cartelloni e i pennarelli. E lui mi spiega che ha un piano. Ha un piano perché si è innamorato di una ragazza, si chiama Cecilia, ovviamente lei non se lo fila, ma lui è convinto che qualora lei scoprisse che lui è stato ammazzato da un gruppo di fascisti, lei si innamorerebbe di lui. Loco amor, que en la sangre me hierve. No puedo estar, ya yo sin tu amor. Amor de mí, vida, no puedo estar ya yo sin amor, loco amor, loco amor, es loco amor, lo que mi corazón siente por ti. Toma tutto mio amore. Ovviamente io accetto. Tiro fuori il cartellone, i pennarelli con tono molto serio, inventandoci una specie di collettivo studentesco partigiano dei comunisti del Parioli. E scriviamo: il compagno Sergio Lolini oggi è stato trovato morto per mano dei fascisti. Beh, fighissimo. Sì, molto figo, bravo. Molto figo, sì, ma sai che facciamo? Perché non ne facciamo un altro paio? Sì, facciamone un altro paio. Allora, facciamo stavolta che ci hanno ammazzato tutte e due. Sì, facciamo che ci hanno ammazzato tutte e due. Ma dai, un'idea geniale. Allora, ne facciamo tre. Uno lo portiamo davanti alla scuola di Cecilia, l'innamorata del mio amico. Uno davanti alla scuola sua, di Sergio. E il terzo davanti alla scuola mia. Il piano prende forma. Quando i cartelli sono pronti, passiamo davanti alla scuola e appendiamo il manifesto. Poi passiamo davanti alla mia scuola e infine arriviamo davanti alla scuola di Cecilia. Metto il cartellone sul portone mentre Sergio si nasconde dietro a un furgone. Poi resto ad osservare quello che accade. Ovviamente all'uscita Cecilia manco s'accorge del cartello e se ne va. A quel punto, quasi come avessi una granata in mano che doveva esplodere e non era esplosa, io sono completamente nel personaggio della vittima dei picchiatori e sento che devo onorare la memoria del mio amico Sergio, che stava tranquillo dietro al furgone ovviamente, ma che per me in quel momento era morto davvero. Avendo completamente mancato il bersaglio, mi dirigo verso un altro bersaglio. Trovo degli amici scout che stanno proprio lì in quella scuola e che conosciamo entrambi da sempre. Sono loro ad avvicinarsi e a domandarmi: ma che è sta cosa del cartellone? Ma io ovviamente rimango nella parte. No ragazzi, è vero, Sergio. E inizio a singhiozzare. Loro ci cascano completamente. Sergio intanto sta sempre dietro al furgone a fumare e a guardare il suo funerale svolgersi a mezzogiorno davanti al liceo di Cecilia. Mi lascia fare il cretino. Aspettiamo che gli amici scout se ne vadano distrutti e poi io e lui risaliamo in motorino. Però, dopo mezzo chilometro, ci rendiamo conto che abbiamo fatto una cavolata. Li raggiungiamo e diciamo loro che ci dispiace per lo scherzo di cattivo gusto, non era vero. Loro continuano a piangere, stavolta per la gioia, e ci menano anche un po'. Ma il peggio arriva quando torno a casa. Ha chiamato il preside della mia scuola, domandando che cavolata avevo combinato, e mia madre mi fa nero. Pure il prete degli scout, nel fine settimana, ci fa neri, peggio dei picchiatori fascisti. Ma Sergio e Cecilia, alla fine, si sono messi insieme. Oh, what a day. Se per caso avete voglia di sentire dal vivo un po' delle storie che appunto peschiamo, come questa di Sergio, da mio cugino, la serata che Mauro fa a Roma, cercatela online e trovate sicuramente la data esatta e il luogo esatto in cui avviene. Noi continuiamo a raccontare, dopo le strade in diretta, torniamo qui a Linea d'Ombra. Linea d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Questa è una puntata che inaugura un nuovo vizio, l'abbiamo fatto centellinandoli durante questa stagione. Il nuovo vizio che abbiamo deciso di inaugurare è il cattivo gusto, un po' perché abbiamo parlato di scherzi, un po' perché in generale il cattivo gusto è considerato come qualcosa di poco conto. In realtà noi abbiamo la sensazione che il cattivo gusto possa fare davvero dei danni. E a proposito di scherzi di cattivo gusto, c'è una storia abbastanza incredibile che è stata raccontata in un libro molto molto interessante che è uscito 2 anni fa, pubblicato in Italia per il Saggiatore. Lo ha scritto la persona che appunto ne è la protagonista, ma lo ha scritto soprattutto Andrea Ceresini. Pronto, ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno. Piacere di conoscerti, grazie per essere sei qui. Sei mio. Il libro di cui vi parliamo si intitola Io sono l'impostore, storia dell'uomo che ci ha fregati tutti, ed è la storia di Alessandro Proto. Andrea, ci racconti in poche parole chi è Alessandro Proto e come tu lo hai conosciuto, incontrato e lo hai convinto a scrivere questo libro? Sì, Alessandro Proto è una persona, un ragazzo di Milano che ha la terza media, che vendeva case, faceva affari immobiliari. E un bel giorno ha scoperto in che modo fregare i giornalisti, cioè in che modo far uscire notizie finte che lo riguardavano, facendole passare per vere. Questo accade a inizio anni 2010, lui si spaccia praticamente per l'immobiliarista dei VIP e comincia a far uscire notizie in cui lui vende le case dei più grandi divi di Hollywood, i più grandi imprenditori, e, non è vero niente. E comincia a far pubblicare queste notizie sui giornali. E non è vero capendo niente. Come funziona insomma il giornalismo in Italia, insomma, che i controlli diciamo sulle notizie sono purtroppo molto sporadici, molto bassi. Okay. E quindi lui comincia a far uscire queste notizie che lo riguardano e che riguardano una serie di VIP ovviamente assolutamente inconsapevoli di questa operazione nei quali venivano coinvolti. Dopodiché comincia a fare la stessa cosa anche con la finanza, quindi comincia a far uscire finte notizie in cui lui si spaccia come un imprenditore che sta acquisendo grosse quote di società italiane o internazionali. E quindi Proto si crea un'identità completamente fittizia come una sorta di nuovo Berlusconi, un nuovo Trump italiano. Esistono dei soldi o è tutto finto? Esistono, nel senso che lui comunque si crea questa nomea, appunto, questa fama. A un certo punto fa uscire notizie secondo le quali starebbe anche entrando in politica, viene invitato in trasmissioni televisive e radiofoniche a dibattere con i politici dell'epoca, quindi 10 anni fa. E tutto questo gli frutta, nel senso che lui crea una società proponendo a coloro che si avvicinano a questa, che vogliono entrare insomma nel suo giro, di offrir loro una serie di contatti con questi personaggi, appunto, da George Clooney, Brad Pitt, Berlusconi, che effettivamente i giornali attestano essere suoi, insomma, nel suo giro. Certo, Andrea, come viene, gente, come viene diciamo smascherato? Che... Come viene smascherato Proto alla fine? Beh, lui viene arrestato poi, perché alla fine... Non sa, ad esempio, che se te fa uscire la notizia che hai acquisito un tot di una SPA, devi fare delle dichiarazioni alla Consob, devi fare una serie di cose. Lui le fa uscire e basta queste notizie, quindi ovviamente turba anche il mercato azionario. Okay. E quindi vengono fatte delle indagini su di lui e lui viene addirittura convocato alla Consob e riesce comunque a superare l'interrogatorio. Dopodiché però la magistratura scopre insomma che tutto quanto che si parla su nulla. Tu, Andrea, come lo convinci a scrivere un libro? O lui è felicissimo di farlo insieme a te? Ma io l'ho conosciuto per un lavoro, per un'inchiesta che stavo facendo, in cui lui entrava un po' di sguincio, diciamo. E inizialmente, leggendo gli articoli su di lui, mi ero convinto anche che lui fosse effettivamente uno che aveva le mani in pasta in capitali, giri di soldi, via dicendo. Poi ci siamo conosciuti e dopo un po' insomma ha fatto capire che era tutto finto, e quindi mi sono reso conto che è una storia eccezionale, insomma. Sì, lo è. E il libro è interessantissimo. La dimostrazione che in Italia basta indossare una giacca, una cravatta, presentarsi col giusto tono, con le giuste parole, e si può insomma far credere di essere chissà chi. Chiarissimo. Tra l'altro, insomma, per evitare che possa risultare simpatico in qualche modo, ci teniamo anche a segnalare una notizia che ci hai girato tu del giugno scorso, per cui Proto ha di fatto turrupinato una donna malata di cancro, una donna di 49 anni a cui ha sottratto 130.000 euro con l'inganno, insomma, fatto un delinquente che di scherzi di cattivo gusto ne ha fatti parecchi. Detto questo, il libro di Andrea Ceresini è molto interessante, si intitola Io sono l'impostore. Grazie mille, Andrea, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. A presto. Ciao ciao. Just to keep you in.